Ondivago, percorsi ondosi attraverso la letteratura, le arti e la cultura, un programma ideato e condotto da Max Ponte. Un saluto e bentornati sulle frequenze di Ondivago. Come sapete, il nostro programma è una creatura radiofonica insolita, dove vogliamo affrontare ecletticamente il mondo della cultura, ma anche dar voce a persone e luoghi che riflettono i mutamenti sociali, la storia contemporanea. Sì, perché cultura e storia risiedono nell'umanità in movimento, per poi passare nei libri, più che il contrario. Il grave limite di un sapere autoreferenziale, da dipartimento universitario, e il non cogliere gli elementi sensibili presenti sul campo. In questo numero apriamo una piccola rubrica ondivaghesca chiamata Melting Plot, dove raccontare storie di mescolanza culturale, di traslazioni sulla superficie terrestre, di spostamenti, insomma di migrazioni, anche se il termine non è proprio nelle nostre corde. Le parole migranti, infatti, e integrazione rilevano comunque una discriminazione di fondo, un insieme di cittadini di serie B. E allora meglio sarebbe chiarire che migranti sono o sono stati tutti. Possiamo trovare mille altri termini, anche più piacevoli e meno incrostati, tipo viaggiatori, con due T. Scendendo nella realtà tricolore, gli italiani sono stati e sono popolo in movimento e i nostri connazionali all'estero costituiscono una realtà ampiamente sottovalutata. Allo stesso tempo il nostro paese è diventato terra di arrivo e di mescolanza, è entrato in quel melting plot che prima era fuori casa. La storia che vi racconteremo oggi è quella di chi ha vissuto questo fenomeno. Si chiama Daria Mašleša ed è una cittadina croata originaria di Mostar, che vive da qualche anno in Italia. Iniziamo con una battuta fatta da Daria durante un colloquio di lavoro. Ti hanno chiesto come sei arrivata in Italia e tu cosa hai risposto? Io devo dire che al momento, visto la situazione in quale ci troviamo, ho fatto proprio una battuta dicendo che sono arrivata con un gomone, perché comunque sono una persona che arriva dall'altra parte del mare Adriatico e mi è sembrato molto carino fare questa battuta, visto che questo è un pensiero molto generalizzato dagli italiani dello sbarco degli stranieri in Italia, che comunque vedono in ogni straniero una persona praticamente che è arrivata, cioè diciamo specialmente nell'extracomunitario, vedere le persone povere che sbarcano con i gomoni, quello che comunque i media ci presentano ogni giorno. Ma ci hanno creduto poi a questa cosa? No. Sì. Sono rimasti molto perplessi e poi mi sono dovuta correggere e dire che è una battuta proprio. Allora Daria, ci puoi raccontare prima di tutto da dove vieni di preciso, così insomma... Ok, allora io arrivo, sono cittadina croata, però arrivo da Mostar, che si trova in Bosnia e Erzegovina, ex Jugoslavia, la città martoriata in questo, diciamo, in questa guerra civile che è stata in ex Jugoslavia dagli anni del 91 al 95. Sono arrivata in Italia nel fine 93, prima a Roma e poi sono finita dopo qualche anno a Torino. E sei partita perché verso l'Italia? Qual è il... Allora, verso l'Italia... bella domanda! Cioè, a un certo punto, quello che si chiede di solito da una persona che se ne va o che parte, sono le domande proprio semplici, allora, che poi magari non hanno una risposta, ne sono conscio, perché forse non l'avrei neanch'io questa risposta, però... Allora... Com'era il tuo paese quando sei partita? Proprio così. E perché? Spiego velocemente solo una cosa. Ci troviamo una mostra nel novembre 93, dove bombardamenti sono la cosa più normale di questo mondo, come si respira l'aria. cade un ponte vecchio che si anche chiama fin oggi così, che era proprio emblema di questa città qua, e per me era anche un po' emblema che è caduto tutto quello in ciò ci credevo fin quel momento nel paese in quale ci trovavo, che in quel ponte vedevo anche molta unità tra le varie nazioni, religioni, ci ha rappresentato veramente un gran simbolo per tutti i ragazzi della nostra città. Però dall'altra parte trovarsi già da 2 anni e mezzo in mezzo al conflitto, con continuo non sapere sopravvivere, se domani, no, se stessa mezz'ora ci sarò viva o no, ha spinto un po' a riflettere, specialmente la mia famiglia, di spingermi, di cercare una possibilità di andarsene fuori, diciamo proprio salvarci la pelle. E in questo punto è subentrata una persona, posso dire, una persona di Roma, cioè una suora, che praticamente tramite varie conoscenze, varie cose, mi ha convinto e è riuscita a portarmi a Roma. E poi dopo, diciamo, 2 anni di vita a Roma, comunque, dove sono stata aiutata dalle suore francescane a abituarmi di nuovo anche alla vita normale, cercare un percorso della vita, cosa fare, si è fatta sentire una mia amica che con i vari altri canali umanitari è finita a Torino, proprio della stessa città, mi ha convinto di venire a trovarla. E poi una cosa tira l'altra quando sei fuori dal tuo paese, nella situazione in quale ci trovavamo, non sapendo se i genitori sono vivi, famiglie, amici. Abbiamo deciso di vivere insieme, cioè io sono fatto trasloco da Roma a Torino, uh-huh. Eccomi qua, ormai da un bel 15 anni che sono a Torino. Uh-huh. State ascoltando Ondivago, ai microfoni Daria Machlesa, per la rubrica Melting Plot, ondivago.blogspot.com. E a Torino come ti sei trovata, nel senso, qual è stato il primo impatto, non solo con la gente, diciamo che forse questo più o meno condividiamo, come è stato anche con il mondo del lavoro, come è iniziato? Allora, rispetto a Roma, devo dire Roma è stata tutta un'altra cosa, ma Torino è stata dura, molto dura all'inizio, forse rispetto a Roma, specialmente questa proverbiale chiusura dei torinesi verso estraneo, che non significa solo un straniero, ma comunque anche arrivando dalla stessa Genova diventi un estraneo, ormai ho capito benissimo in tutti questi anni. Ho trovato una situazione inizialmente lavorativa meglio rispetto a quella che vedevo a Roma, cioè comunque si riuscivano a trovare la possibilità tra la gente, anche riusciva a capire se avevi le qualità, le possibilità, ti dava una possibilità lavorativa, non precludeva subito questa cosa che sei straniera, sei venuta da un paese straniero. Mi sono comunque trovata bene. Cioè, qui siamo negli anni 90. Negli anni 90, nei pieni fine anni 90, inizio anni. Quali sono i primi lavori che hai fatto? Beh, classico. Allora, primi lavori: babysitter, governante della casa, poi ci siamo avviati verso la traduttrice simultanea nelle occasioni particolari così che ci capitavano, comunque anche dalla parte del comune di Torino. Poi dopo, man mano, mi sono iscritta all'università, alla facoltà di lingua e letteratura straniera, e di lì dopo sono finita anche a lavorare in un ufficio commerciale estero di un'azienda, e dopo sono finita nell'ambiente di cultura, ambienti museali di Torino, in cui lavori ancora adesso. Sì, infatti. E come ti vedono i tuoi amici in croati? Cosa pensano di te? Se, chiaramente tu ritorni ogni tanto, che tipo di cambiamento hai visto nel tuo paese in questi anni? E come ti vedono loro adesso? Ok, Questa è un'altra quasi come quella prima domanda, molto molto dura, molto dura da rispondere. Allora, cambiamenti in Croazia ci sono visti, che in Croazia che in Bosnia, ultimi 10 anni devo dire un netto miglioramento, ma mi sembra che questo è un po', forse succede in ogni paese dopo una guerra, che si riesce a trovare di nuovo entusiasmo di ripartire, di costruire, di cercare, si comincia un po' a respirare, diciamo, un clima innovativo, si comincia a star meglio. Però dalla parte dei miei amici, quelli primi anni sono, non dico che sono stati visti come tradimento, però un po' le cose quando loro sono là che soffrivano la fame, tutto quello che ho subito anch'io per quegli 2 anni e mezzo, però loro hanno continuato ancora a subire per un bel po' di tempo, crea un po' le distanze. Visto come una fuggitiva, sì, sì, diciamo, anche se sei fuggitivo umanitario, è rimasta molto idea verso tutti quelli che andavano nell'estero, anche se erano le persone con i progetti umanitari che la comunità europea li stava salvando, sono stati visti come abbastanza come i fuggitivi nelle teste ovviamente delle persone che rimangono. Adesso ormai la cosa un po' anche con la globalizzazione, anche le stesse persone di là, dopo gli anni del cambiamento, la pace che c'è negli ultimi 15 anni viaggiando, le cose sono cambiate assolutamente. Adesso cioè, mi vedono ormai, ecco, c'è cioè qui una cosa, che loro mi vedono quasi come una italiana e invece per italiani rimarrò sempre una croata, è un classico, credo che capita a tutti. Un classico di chi ormai assume 2 identità, come è successo anche agli italiani che sono immigrati all'estero. Credo di sì, cioè proprio. Raccontaci qualcosa dei tuoi desideri in questo paese, se vuoi rimanere qui in Italia, se pensi di andare in un'altra... Beh, per adesso sì, cioè voglio rimanere qua, malgrado che ci sono centinaia dei problemi e forse che anche qualche di problema lo conosci anche tu. Un periodo mi è anche venuta l'idea di andarmene in Australia o Nuova Zelanda, perché la vedo ancora come le frontiere non esplorate, nuove frontiere, forse ancora possibilità un po' anche della umanità, cioè di vita un po' più umana, meno con i nostri ritmi frenetici che troviamo nell'Occidente. Però hai no. trovato una tua stabilità. Trovato, sì, bravo, cioè proprio dopo tutti i cambiamenti ho notato, ho provato anche in questi 15 anni di Torino fare un cambiamento, di andarmene a vivere in Irlanda, ma non lo so, qualcosa mi ha legato a questa città, sono ritornata e ormai ho messo le radici qua. Ok, grazie Dario. Prego Max. Con questa nuova rubrica dal titolo Melting Plot, Ondivago ha raccontato la storia di Daria Machlesa, che riflette le mescolanze culturali, le intersezioni che l'Italia sta vivendo. Ondivago darà ancora voce a tutte quelle donne che rifiutano i modelli usa e getta del successo a tutti i costi. Nell'Italia in movimento, nel dinamismo interno ed esterno, rappresentato da italiani all'estero e nostri nuovi connazionali, ci sono le vicende di chi lavora e costruisce, di chi elabora nuove identità e si oppone con le sue energie al degrado. Ondivago è un programma realizzato grazie alla collaborazione di Anna Raffaella Farao in redazione e Alessandro Gianotti alla parte tecnica. Ondivago è presente anche su Facebook. Vi invitiamo ad iscrivervi al suo gruppo. Un saluto ondoso da Max Ponte. Ondivago, parcours ondoyant à travers la littérature, les arts et la culture. Un programme conçu et présenté par Max Ponte. Info ondivago.blogspot.com. Email ondivagoradio@gmail.com.